Boing. Io vi rimbalzo, sì. Voi e le signorie vostre, come la palla del pungiball delle giostre, sì. Questi fanno le pose, sì. Queste fanno le spose, sì. Io li rimbalzo come una con le sue cose. L'etichetta zio vorrebbe pulirmi ma non si può. Non mi tolgono sta faccia nemmeno col Photoshop. Quando a carnevale tua mamma ti vestiva da Zorro, io ero già in giro per la strada vestito da Zarro, sì. Con tutta la gang fra, entro in tutta la festa e vi rimbalzo, faccio sì sì con la testa. Bevo tutto di getto, provo frasi ad effetto, sbiascicando le dico: bella, devo portarti a letto. Sono fuori per le tipe col doppio cognome, con il nome esotico e quelle che non so il nome. Fra fuori per quella scalza, sì. Quella con reggicalza, e nessuna mi rimbalza, zio. Io non mi guardo amici, io non ascolto Emilio. Rimbalzo quel che dici, rimbalzo il tuo consiglio. Sono fuori controllo e la testa rimbalza finché si spezza il collo. Scrocco nel privé, non vado su novella, esco con la soubrette, poi rimbalzo anche quella. Sono fuori controllo e la testa rimbalza finché si spezza il collo. Frate, suono al concerto, suono al metal detector, sono il boss di me stesso, non mi metto l'ombretto. Vuoi tirare il grilletto, ma sei solo un valletto. Certi mi dan rispetto, certi mi danno un netto. Rimo da quando il pallone era il super tele o il tango, il periodo di moda per i Durango. Sulla schiena lo rango, vendi qua, vendi lo sbando. Senza lo sbatti di inventarti il personaggio. Ti vedo in tele ma nessuno fa, poi va al tuo show, no. Zio ti rimbalzo tipo molle delle Nike Shocks. Ti rimbalzano dal club e non rimbalzano ste chiappe. Mi consigli le tue bazze, ma grazie no, grazie. Rimbalzo il tuo giornale, la recensione che fai. Rimbalzo l'intercettazione se parlo su Skype. La tua ragazza ti rimbalza, è già commesso un boing. 747 non ti passa, non ti passo il joint. Io non mi guardo amici, io non ascolto Emilio. Rimbalzo quel che dici, rimbalzo il tuo consiglio. Sono fuori controllo e la testa rimbalza finché si spezza il collo. A scrocco nel privé, non vado su novella, esco con la soubrette, poi rimbalzo anche quella. Sono fuori controllo e la testa rimbalza finché si spezza il collo. Rimbalzo come la terra col terremoto e la sella dello squarna quando schiaccia e la metti in moto. Solo al club o in relax nel letto, sì. È max rispetto quando vedono le Air Max che metto, oh, oh. Quando si appizza l'impianto ti si sposta fegato e milza senza fare il trapianto. Buttiamo il tuo DJ nella vasca dei piranha, ma un metto alla montagna, ma un chilo è una cucagna. Io non mi guardo amici, io non ascolto Emilio. Rimbalzo quel che dici, rimbalzo il tuo consiglio. Sono fuori controllo e la testa rimbalza finché si spezza il collo. A scrocco nel privé, non vado su novella, esco con la soubrette, poi rimbalzo anche quella. Sono fuori controllo e la testa rimbalza finché si spezza il collo. Tutti vogliono dirmi come fare le cose, ma chi beccare e dove andare? Boh. Tutti vogliono dirmi cosa cantare, zio. Grazie, ma no, grazie. Io li rimbalzo tipo boing, boing.